L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Sono i giorni di Obama e tutti o quasi tifano per lui, anche quelli che non lo avrebbero mai votato. Del resto, se l'economia si riprenderà, lo dovremo alle scelte che da domani farà il nuovo presidente degli Stati Uniti. Ma c'è qualcosa di stonato in questo lungo passaggio di consegne tra un inquilino e l'altro della Casa Bianca. Quasi 3 mesi di interregno, troppi nell'era della globalità, 4 giorni di festeggiamenti, una grande saga americana, il concerto di ieri sera al Lincoln Memorial, il tutto mentre infuriava la guerra a Gaza e le banche saltavano per aria. Eppure quello che a noi pare eccessivo e retorico dà perfettamente il senso di che cosa sia ancora, nonostante tutto, la politica in America. La risposta a bisogni e interessi sì, ma soprattutto la capacità di interpretare sogni ideali di un popolo che si sente in questa occasione orgogliosamente unito. Anche i più umili, anche gli ultimi, mentre passava il treno con il primo presidente nero della storia, si sono sentiti parte di un progetto di società, protagonisti di una missione civile. La vera differenza con noi, se volete, è questa, e dovrebbe farci riflettere. La politica non è solo la cura degli interessi, spesso i propri, e non può ridursi ad uno stucchevole reality show o l'apparizione nei TG della sera delle stesse facce, immancabilmente le stesse, ogni giorno. Magari fossimo tutti americani. Buona giornata.